questo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Parole e dintorni, Milano. Un originale e divertente omaggio al genio di Da Vinci con Leonardo Da Vinci in pop. Un EP di un musicista molto particolare, Marco Di Noia. Ho conosciuto la famiglia di liutai e i musicisti dei Sangineto che ricostruivano gli strumenti di Leonardo a partire dai suoi progetti. E allora ho deciso, anche per via della ricorrenza dei 500 anni dalla sua morte, di unire il cerchio e fare un album, un EP in questo caso, interamente dedicato all'opera e alla vita di Leonardo, con questi strumenti che dialogano con quelli moderni. Tu hai una formazione di studi un po' particolare. Sì, diciamo che io ho due lauree in materie umanistiche e un dottorato in culture e letterature comparate. Io ho sempre avuto un approccio accademico. Per Leonardo da Vinci, per forza di cose, bisogna studiare, anche studiare tanto, dalla biografia per capire l'uomo innanzitutto, provare a capire l'uomo, per avere anche poi dei livelli di scrittura che non siano soltanto superficiali ma anche più profondi, quindi con riferimenti che se finiscono per qualche ragione innanzi a un esperto di Leonardo, insomma, ti facciano fare bella figura. Ecco, io penso di aver creato un'opera che da questo punto di vista ha le spalle abbastanza larghe. Mondi riflessi in proporzione, polmoni e cuore, la dissezione, l'anatomia della sapienza, per un discepolo dell'esperienza. Terra quadrato, cerchio universo, l'uomo riduce nel centro del cosmo. Leonardo ai suoi tempi non era pop, cioè quando è iniziato Leonardo ha avuto difficoltà perché era uno sperimentatore, quindi gli si commissionavano, che ne so, l'Adorazione dei Magi in chiave pop per quello che era il pop del Cinquecento, e lui se ne usciva con qualche cosa totalmente basata sulla mimica facciale, lo studio dei muscoli, e gli veniva rimandato indietro dai suoi datori di lavoro, diciamo. Poi lo è diventato post morte, quando sono stati tra l'altro divulgati i suoi scritti e i suoi progetti, e adesso è assolutamente una star del pop, tanto che le sue opere sono commercializzate da essere ispirazione per libri, per film, a essere magliette, a essere cover di cellulari. L'uomo vitruviano è dappertutto? L'uomo vitruviano è assolutamente dappertutto. Io cito nel mio primo brano l'orologio dell'uomo vitruviano che indica i minuti con il piede e con la mano, che è nella sala da pranzo dei miei genitori. L'ho anche utilizzato per il video. Di fatto nel video di Stella del Pop io tutti i gadget di Leonardo li ho ritrovati attraverso Amazon e li ho messi nel video, tutti quelli che avevo nominato, alcuni di fantasia, altri no, ma per dire quanto è una star, quanto sia diventata star Leonardo da Vinci nei nostri giorni, forse è la più grande star che abbiamo. Il volo è una delle sue idee più affascinanti. Sì, io ho scritto un brano che si intitola L'ultimo volo di Leonardo e trae spunto da alcune delle sue macchine, tipo la libellula o l'Icaro di legno, trae spunto da queste macchine per parlare del volo degli uomini di ogni vita, ovvero il cercare sempre di mettere mattone su mattone nella propria vita e raggiungere qualche cosa pur sapendo che prima o poi ci dovremo spegnere, come degli Icaro, che appunto in questo caso l'Icaro mitologico aveva l'ali di cera innanzi al sole, in questo caso l'Icaro di Leonardo magari arriva fino a un certo punto e poi decade, con la speranza che magari qualcuno ci ricordi, come è successo magari per, in maniera diciamo molto importante, per il grande Leonardo da Vinci. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Marco Di Noia. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.